Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Era diventato un vero e proprio professionista con numeri da record. Almeno 200 i colpi messi a segno, soprattutto a Roma, nei negozi del centro storico. Si tratta di un 39enne di Viterbo, portamento distinto ed elegante, dotato di grande dialettica, che ora è stato arrestato dai carabinieri per truffa aggravata. Obiettivo dell'uomo: bar, hotel, negozi e supermercati. Una volta ispezionato l'ambiente e studiato psicologicamente le vittime, entrava in azione. Il truffatore, con disinvoltura e tranquillità, avvicinava quello che era responsabile, un semplice commesso, vantando un credito nei confronti del titolare, che in realtà in quei momenti era assente. Per cercare di rafforzare poi questa sua richiesta, sottoponeva appunto all'attenzione anche una sorta di ricevuta falsa, in cui si certificava un debito che non andava oltre le 350 euro. Truffatore fingeva di telefonare al titolare con tono confidenziale. Esiste una quotidiana maniera per indignarsi di fronte alla parola truffa. È chiaro che il cittadino rabbrividisce quando scopre che nella capitale del suo paese esisteva un bunker sotterraneo dove da decenni alcuni responsabili della municipalizzata dei trasporti stampavano biglietti finti, come stampassero soldi finti la banda di Totò e Peppino dei falsari, capito? Li stampavano e poi li spacciavano. Poi quello che si guadagnava dei biglietti finti se lo spartivano fra partiti. Pare ci fosse stato un passaggio di testimone per cui questa organizzazione sotterranea dello stampaggio dei biglietti finti degli autobus di Roma fosse una maniera consociativa di finanziare alcuni partiti. Ci penseranno i magistrati. Si nota sempre più spesso di amministratori fanno creste immense su quelli che sono i soldi pubblici che percepiscono, si comprano le penne d'oro, si comprano dei viaggi fantastici, le pellicce per le amanti, il caviale, perché sembra che improvvisamente esista un lavoro parallelo che è quello del truffatore autorizzato, che dietro l'egida del rappresentante delle istituzioni in realtà compie il suo sogno sardanapalico di fare una vita al di sopra di ogni possibilità umana. C'è proprio bisogno, abbiamo visto in passato episodi, di procurarsi degli agi, delle mollezze che nemmeno nei film più oltre l'immaginario comune viene rappresentato. Beh, questo è qualcosa che ci fa indignare, su cui naturalmente tutti abbiamo la bavetta di rabbia nei confronti del colui che avrebbe una responsabilità di gestione con i nostri soldi, fa questo tipo di vita. Poi esiste un altro settore, avete sentito? Il truffatore professionista. Non è mai finito, non si è mai estinto. La genealogia complessa che fa sì che l'uomo decida che la sua vita è meglio usufruire della dabbenaggine, della ingenuità, del senso di fiducia degli altri piuttosto che procurarsi dei mezzi di sostentamento anche di vita agiata secondo le vie canoniche normali, e non è assolutamente detto che perché ci siano i grandi truffatori, quelli grandi, quelli che si scoprono i buchi di miliardi, quelli che improvvisamente vengono fuori tanti soldi e non si sa come erano finiti le loro tasche, sono ancora i piccoli organizzati truffatori professionisti, quelli che fanno la truffa al loro lavoro, che sono convintissimi che comunque esista un largo margine di credulità della popolazione che è ben occupata nei propri quotidiani affanni, per cui ci se ne possa approfittare. 800 24 0024, nel breve tempo a nostra disposizione vi daremo un aggiornamento su quelle che sono le quotidiane truffe nelle quali ognuno di noi potrebbe comunque incappare. Sono infatti due tecniche distinte, una è quella del cosiddetto skimming, l'altra del cash trapping. Lo skimming non è altro che una vera e propria clonazione della carta con l'ausilio di una piccola telecamera e di un lettore ottico che permette in un tempo successivo di clonare la carta bancomat. Il cash trapping invece è un procedimento meccanico che consiste nell'inserimento all'interno del bancomat di una cosiddetta forcella meccanica. Il cliente, nel momento in cui va a effettuare un prelievo, porta a termine tutte le operazioni, ma il denaro non fuoriesce perché resta bloccato in questa forcella. Ecco dunque che il cliente preso una truffa molto semplice è quella di operare sulle macchinette dei bancomat, in cui ognuno di noi può andare a avere illecita possibilità di ritirare il proprio denaro, ma il proprio denaro rimane incastrato nel sistema di filtraggio del truffatore. Ma non è soltanto questa. La truffa del resto. Il barista prepara lo scontrino fiscale e consegna lo scontrino fiscale contestualmente e ritira la banconota da 100 euro. La tiene in mano, comincia a dare il resto, un taglio da 5 euro più 1 euro in moneta e a seguire due banconote da 20 euro. Adesso prende dalla tasca le banconote del taglio più grosso, consegna 50 euro. Ecco, in questo momento avete visto l'operazione, le 50 euro sono sparite. In un niente ha fatto sparire i 50 euro mettendoseli in tasca. Rimane sul bancone di fianco alla cassa l'iniziale resto di 46 euro e l'uomo con la mano destra chiede al barista e attende dal barista il resto. Prende in mano i 46 euro e intanto il barista continua a dare il resto. Sembra la più infame delle maniere prendersela con gli anziani che si occupano del resto al bar. Però è una delle maniere comunque per trovare la parte più debole della popolazione più debole. 800240024, vi stiamo per dare alcuni aggiornamenti, alcune novità. Il vostro contributo è fondamentale perché dobbiamo sapere da voi come si stanno organizzando i piccoli truffatori professionisti che nulla hanno a che fare con i grandi professionisti della truffa, che sono poi in gran parte i nostri amministratori. Il meccanismo della truffa è sempre lo stesso, affabilità, cortesia e ottima capacità dialettica. Gli anziani finiscono nella rete dei truffatori che riescono a raggirarli con estrema facilità. Spesso basta fare il nome dei figli, parlare di debiti da saldare o millantare un rapporto di amicizia per farsi consegnare somme di denaro anche importanti. Come truffatori senza scrupoli riescono a sfilare anelli, braccialetti, orologi dai polsi, soprattutto degli anziani, con alcuni trucchetti, facendo provare ad esempio una crema per le mani. Oggi parliamo di un'altra truffa, la truffa dell'anello, andiamo nei particolari e per farvi capire come avviene questa truffa abbiamo il nostro caro Osvaldo che in qualche modo... Alessandro Marchetti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Alessandro Marchetti ci ha spesso corroborato in questa azione, presidente dell'ANASPOL, l'Associazione Nazionale Agenti e Sottufficiali delle Polizie Locali, che ha anche un sito, anaspol.it, ha tenuto recentemente un corso antitruffa al liceo Primo Levi con appunto i nonni degli studenti del liceo, che sono le categorie più deboli. Rimangono gli anziani la categoria più attaccata da questo piccolo cabotaggio di truffa quotidiana? Certamente sì, perché sono quelli visti dal punto di vista dei più deboli, perché basta parlargli di una cosa, si possono commuovere, basta fargli vedere o fargli avere un ricordo e cedono. Quindi sono i soggetti più adatti per questi truffatori. Senta, Alessandro Marchetti, questa mattina le sottopongo il caso di un'ascoltatrice che ci ha chiamato, che ci dimostra che le categorie deboli non sono soltanto quelle legate a un problema di tipo generazionale, ma anche persone che molte volte per affanni o per circostanze molto particolari sembrano le vittime predestinate per delle truffe, forse di nuovo tipo o forse di tipo classico. Sarei a darci il giudizio. Le faccio ascoltare la testimonianza. Gabriella, buongiorno. Buongiorno Gabriella. Allora, sinteticamente, cosa ti è successo? Sabato mattina ero andata a fare la spesa con mia figlia. Io ho una figlia che è disabile, affetta da una forma di autismo, per cui avevamo fatto questa spesa, sono andate in macchina, mia figlia si è seduta, io sono andata a rimettere il carrello a posto. Come sono risalita in macchina, ma in maniera molto tranquilla, sento qualcuno che bussa, ma che bussa nella macchina accanto al finestrino. Quindi mi giro e vedo sto signore. Lo guardo, non riesco a capire, lui scende dalla macchina e comincia a dire che io avevo strusciato la sua portiera, quindi c'era un graffio, c'era una piccola mancanza di vernice e che quindi naturalmente questa cosa era una cosa gravissima che bisognava assolutamente... E ti ha chiesto dei soldi, perché ha detto non facciamo con l'assicurazione ma facciamo cash. No, ha fatto direttamente, cioè ha cominciato subito a dire che io ho detto, siccome era impossibile, ho detto vabbè, ok, tanti saluti. E mi ha bloccato, nonostante naturalmente mia figlia è in macchina, perché sentendosi in tutto questo, cioè sentendosi bloccata nell'impossibilità di andare via con me e vedendo me impegnata con questo signore, ha cominciato ad avere una di quelle ci hanno, quindi strilla, urla, addirittura con la testa verso il finestrino e quant'altro, e lui non mollava, dicendo che naturalmente bisognava prendere il numero di targa, che tante cose, perché l'assicurazione eccetera. A quel punto ha detto vabbè, prenda il numero di targa, faccia quello che vuole. Lui non ha mollato, mi ha trattenuto. Quanto ti ha chiesto di soldi? Tanto andiamo al punto. No, i soldi non mi ha chiesto, che comunque sia avrebbe fatto un esposto alla sua assicurazione, per cui per quella sgraffiatura che secondo lui c'era, ma che non c'era assolutamente, cioè non era provocata da me, avrebbe fatto, cioè era tipo 1000 euro solo per rifare tutta la fiancata. Allora, fermati un attimo Gabriella. Alessandro Marchetti, le sottopongo questo caso perché nella giornata di ieri un'altra signora che conosco mi ha detto che a sua madre è successa esattamente la stessa cosa. In un supermercato la persona viene lì, dice che la signora è un pochino più anziana, è un altro caso, però è una persona che apparentemente dimostra che comunque ha, diciamo, una vulnerabilità maggiore rispetto a una qualsiasi altra signora che esce dal supermercato. Si profila una maniera nuova della variante, una variante possibile della cosiddetta truffa dello specchietto. Questa è l'idea che mi ero posto. Beh, qui c'è un'altra cosa: non si può trattenere nessuno contro la propria volontà. La signora poteva benissimo lasciare la targa e andare via, essendo stata trattenuta, da quello che capisco, per un braccio o per qualsiasi altro modo. La persona che l'ha fatto ha commesso un abuso sulla persona e probabilmente rischia anche un ipotetico, naturalmente diciamo ipotetico, sequestro di persona. Cioè non si può fermare una persona con le braccia e pretendere di essere ascoltati o pretendere, sì, di, ma non è ragione. Singolare che ci siano ricorrenze di sgraffiamento al supermercato, forse sì, no, ma succede spesso sia fuori che dentro i supermercati, molto spesso anche con la spesa. Di truffe di questo genere ce ne sono molte. In quel caso noi suggeriamo sempre di chiamare le forze dell'ordine. Va bene, se lei pensa di avere ragione, io adesso chiamo polizia, carabinieri, polizia locale, e vedremo poi chi ha ragione o torto. Ecco, in quel momento, se è veramente un truffatore, abbandona immediatamente l'azione, e si deve chiamare il 113, il 112, perché se è un truffatore abbandona, lascia perdere. Sentiamo un attimo Arrigo. Se viene fermato, poi naturalmente ha già dei precedenti già magari conclamati, e quindi sa bene che rischia. L'ascoltatore Arrigo, un secondo prima della pausa, vediamo se ha un nuovo caso da sottoporci. Buongiorno, Arrigo, buongiorno. Nicoletti. Sì. Buongiorno, sì. Allora io sono in macchina dalla mattina alla sera e mi capita abbastanza spesso, sempre più spesso, di essere avvicinato da gente che si sbraccia, grandi saluti, grandi sorrisi, ciao come stai, non ti ricordi di me e cose di questo genere. Ammetto che una volta ci sono cascato, perché la prima volta capita a tutti. Anche perché è brutto far finta di essere ricoglioniti, fa finta di cadere. Poi gente normalmente vestita bene, gente... E uno dice, ma chi sarà? Poi io faccio un lavoro dove incontro tanta gente. E quindi cosa le offrono? Secondariamente, appunto, offrono di tutto e di più. Ultimamente però non lascio neanche arrivare al punto dell'offerta. Tiro fuori il telefonino e abbasso. Mi faccio un esempio di offerta. Mi faccio un esempio di offerta, Arrigo. Ai tempi erano i videoregistratori, adesso lettori DVD, decoder satellitari, di tutto, qualsiasi oggetto, qualsiasi macchine fotografiche, qualsiasi cosa che può essere un'offerta, no? Un affare. Allora fermiamoci un attimo, Arrigo, diamo tempo delle informazioni del traffico di respirare Alessandro Marchetti, poi vediamo fra un istante qual è il rovescio negativo di questo tipo di approccio, anche se è abbastanza noto. Melog, cronache meridiane. Con la scusa di consegnare una tessera sconto, e assieme alla tessera che ipoteticamente ti darebbe il diritto a sconti per acquisti, no? Ti lasciano un bauletto di merce che apparentemente è di grandi firme, ma che poi noi abbiamo verificato è di infima qualità. Il promotore è talmente abile che fa passare quel modulo che compila per il deposito del bauletto in visione. Inizia un dramma, perché poi trascorso 2-3 settimane vanno a casa della famiglia in seconda battuta i funzionari che dovrebbero consegnare la merce, ma che hanno il compito esclusivo quello di portare a casa il denaro, cioè sono i cosiddetti consegnatari, come li chiamano in gergo. Quanti soldi si fanno dare? Ma i contratti vanno dai 2.400 euro, abbiamo visto quasi fino a 5.000 euro. So che rispetto ai fantamiliardi di cui si legge nei titoli delle prime pagine dei giornali è ben poca roba, ma pensate che è sparpagliato e spalmato sulla parte più debole della cittadinanza. È un bel impatto quello della resilienza, cioè resistenza attiva del truffatore professionista tradizionale. Gigi, buongiorno. Buongiorno. Sì. Brevemente, parcheggio l'auto, sai quei parcheggi che c'è un'auto contro l'altra, no? Dall'altra parte c'è l'altra auto che mi guarda. Faccio le mie cose, torno indietro, ci sono due tipi che mi aspettano, con un'auto davanti alla mia, con il paraurti staccato per terra. E mi dice, ma lei non ha visto che danno che ha fatto? Dico, che danno ho fatto, scusami. E qua mi ha staccato addirittura il paraurti, la mia macchina non aveva un graffietto. Vabbè, l'ho lasciato andare avanti, dico, beh, ok, capito, arriviamo al soldo, cosa dobbiamo fare? E mi sa che ci vorrà 300-400 euro per mettere a posto la macchina. A quel punto io sono un ex forza dell'ordine, ho tirato fuori il tesserino, gli ho detto, adesso come la mettiamo? E ancora corrono. In 30 secondi hanno buttato il paraurti in macchina, sono spariti. Ecco, questo dà la conferma sulla testimonianza dell'ascoltatrice Gabriella che esiste una fattispecie di truffa da parcheggio. State attenti quando qualcuno, poi se voi avete dato la botta chiaramente lo saprete, avrete la coscienza che vi pesa di questo fatto, ma se non avete fatto nulla, siete tranquilli, sappiate che nei parcheggi, sia parcheggio di supermercato che parcheggio incustodito, esiste la possibilità che qualcuno rivendichi un incidente che voi non avete fatto. Gabriele, buongiorno. Pronto, buongiorno, Nicoletti. Senta, in breve, praticamente no, non è proprio una truffa che mi hanno fatto a me, è proprio questa signora. Io ho strusciato col camion, ho strusciato la macchina di una signora, ma ho fatto una strusciatina di circa... Guarda, fuori il tema, se l'ha dato la strusciata alla signora non è una truffa, lei la deve pagare. Alberto. Adesso tutti gli strusciatori di signori sentono affrancati. Gabriele, scusi, è Alberto. Salve, io mi chiamo Alberto, sono un piccolo imprenditore di Cagliari. Niente, una mattina aprivo l'attività, si presenta questo ragazzo, tutto come Mercedes, classe A, fighettino, bellino. Ah, ciao, è venuto mio padre. Ho detto, no, chi è tuo padre? Mi ha fatto nome e cognome. Bucchie. Comunque va via, fa per andare, ritorna e fa, sai però mi scoccia chiedertelo, se possiamo aiutarti. Sai cos'è, mio padre è un dottore, è andato via per un convegno e si è portato via le chiavi di casa e quindi non posso andare a casa. E quindi cercavo se avesse lasciato le chiavi, ho detto no guarda qui non me l'ho lasciato nulla. Va di nuovo via, ritorna e ci ascolta, però sai mi scoccia, non vorrei chiedere, dimmi, non lo so io lì, no? Guarda, io ho una zia a Olbia che è a 400 km da Cagliari, che è lì al doppione, non è che hai qualcosa da darmi e metto benzina e vado da lei? Io gli ho detto guarda, abbiamo appena aperto, avevo 40 euro, gli ho detto guarda, tieni, gli ho detto però un momento, dammi il numero di telefono, squillo il cellulare, almeno per vedere se tu, squillato, tutto bene, sì, prende i soldi, niente, va via e non l'ho più visto, insomma. Bene, era abbastanza prevedibile. Terminiamo la prima tornata, seconda tornata, anche ultima, perché il tempo finisce, con Carlo. Carlo, classico episodio dello specchietto, mi sembra. Sì, no, non dello specchietto, sulla fiancata. Cioè, mentre sorpassavo, ho sentito un colpo, boom. Allora, credevo che avessi preso un sassolino o qualcosa dietro. Strada facendo, poi mi lampeggiavano e mi facevano segno. Mi sono fermato, ho chiesto cosa volevano. E mi diceva, guarda che tu nel rientrare nella corsia mi hai strisciato la macchina. Dico, quale macchina? Dico, guarda che io non l'ho presa proprio. Difatti sono sceso, ho guardato la macchina, non c'era niente. Tutta una volta dice, guarda, come non c'è niente, non vede? E tutta la volta ho visto una strisciata sullo sportello, sulla fiancata, di colore nero. Dico, scusa, ma io non l'ho presa proprio. Insomma, dice, dammi il numero della targa. Insomma, GG mi hanno chiesto i soldi. Mi devi dare 400 euro senza che facciamo l'assicurazione. E com'è finita? Com'è finita? Che alla fine ci siamo messi d'accordo, quasi sia. E quando gli ha dato? Mi sono trovato pentito che siamo andati poi alla bancoposta, ho prelevato 200 euro, mi sono messo d'accordo per e gliel'ha dati. Bel colpo, bravo. Alessandro Marchetti, gli ho fatto sentire un assaggio, ma torneremo su questo argomento. Vediamo cosa lei ha da aggiungere rispetto a quello che hanno detto gli ascoltatori. No, e bisogna stare molto attenti, noi lo ripetiamo, quando qualcuno vi dice mi hai intruppato, mi hai urtato, cose di questo genere, bisogna essere determinati a dire vabbè, io ti ho urtato, chiamiamo le forze dell'ordine e faranno loro il verbale, perché io sono convinto che non ti ho urtato. A me pensi che mi hanno fermato ultimamente, mi hanno detto mi hai sorpassato in maniera maleducata, e dico senta, mi spieghi, vuol dire, ma mi hai sorpassato in maniera... quando ha capito che veniva da ridere, stavo per chiamare, sono scappati via, non sapevo cosa significasse. Purtroppo succede e succederà sempre più spesso, visto insomma i tempi in cui ci si arrangia, per cui non mi aspetto tempi in cui questo non avvenga. Senta, può dare un'indicazione? L'aspetto dei truffatori di solito è sempre al di là di ogni sospetto, vero? Ma certamente sì, uno la faccia da delinquente non si fida già da sé, quindi deve avere almeno una faccia pulita o comunque una faccia che non o che include un certo rispetto, diciamo. Quindi così. Grazie Alessandro Marchetti, il consiglio è guardatevi anche dalle facce pulite, perché non si sa mai chi sono. A domani.